se non ci sono altre domande, io ringrazio davvero tantissimo Matilde e Dario per le testimonianze e le riflessioni sulle testimonianze che avete portato, e ringrazio ovviamente la Terra Trema per aver organizzato questa occasione. Io credo davvero che il dibattito di questa sera si inserisca molto bene all'interno di quello che è lo sforzo che Terra Trema sta facendo proprio nella costruzione dell'immaginario di un territorio come quello di Milano, soprattutto nel riarticolare quelle che sono i rapporti tra spazio urbano, spazio rurale, e mettendo in evidenza proprio un'idea di territorio come una sorta di arena materiale e di relazioni all'interno del quale gli spazi, le rappresentazioni continuamente vanno giocate, vanno anche in modo conflittuale e vanno anche strappate in qualche modo all'immaginario più consolidato. Quindi davvero grazie a Terra Trema e grazie a tutti voi che siete intervenuti. E appuntamento all'incontro di domani. Io credo che la riflessione che ha fatto prima l'amico pescatore, come si chiama? Tano, sia davvero meravigliosa, quando appunto ha messo in evidenza il fatto che per recuperare il passato si debba avere un progetto di futuro. Ecco, io credo che i vignaioli e i produttori che sono ospiti a Terra Trema siano un esempio di questa cosa, perché la tradizione in sé per la tradizione rischia di essere davvero una gabbia, senza un progetto di futuro rischia di essere una gabbia, ma qui ci sono testimonianze che appunto il futuro si può pensare, ecco, e poi ha bisogno ovviamente di radici più profonde, quindi grazie.